Nel quarto capitolo, sempre che stiamo studiando, di Psachim, nella Mishnah, siamo arrivati a Mishnah Zain, la settima Mishnah di questo capitolo. E stiamo parlando, come vi ricordate, di ciò che è permesso e ciò che è vietato fare durante la giornata, soprattutto del 14 di Nisan, cioè della vigilia di Pesach. Abbiamo visto che c'è una differenza tra prima di Chatzot e dopo di Chatzot, prima del mezzogiorno alachico e dopo. Dopo il mezzogiorno alachico è vietato fare melachà, e per ciò che riguarda il prima abbiamo visto che ci sono diverse usanze, makom shenahagu, chi usa così e chi usa in un'altra maniera. Ora la Mishnah parla di un caso specifico, sempre legato al 14esimo, alla vigilia di Nisan. Moshivin shovachin latar negolim be'arba'asar. Si preparano, si predispongono, letteralmente shovachin significa nidi, nido come per un uccello, però stiamo usando il termine nido un po' in prestito qui. Cosa si parla? Di cosa si intende? Moshivin si fa stare fermi, come la shevet, stare seduti, su dei nidi, come dei nidi, i tarnegolim, cioè le galline. Che significa? Che chi prepara le uova per fare scaldare, per fare poi sviluppare i pulcini, ok? E vuole preparare, predisporre tutta questa situazione dove mettono il fieno e preparano in modo tale che le galline possano stare lì sopra le uova e scaldarle. Allora la Mishnah dice, per questo usa il termine nido, shovachin, perché è simile alla preparazione di un nido, anche se non è un nido, chiaramente. La funzione del nido. Si può fare questo nel giorno 14 di Nisan. Perché non lo si dovrebbe fare? Alcuni dicono che si intende dire anche dopo Chatzot, quando normalmente è vietato lavorare la vigilia di Pesach, questa cosa sarebbe permessa il 14 di Nisan, perché non è considerato un lavoro vero e proprio, una melachà totale, diciamo così, completa. È un impegno, è una cosa, però non è considerato una melachà così importante da essere vietata la vigilia di Pesach anche dopo Chatzot. Ok? Questa cosa è contesa, cioè non tutti sono d'accordo. Alcuni dicono è permesso, ma solo prima di Chatzot. Quindi sul significato di questa parte della Mishnah ci sono delle discussioni tra i commentatori. O si intende prima di Chatzot o si intende anche dopo Chatzot, addirittura sarebbe permesso. Ora, cosa succede se noi abbiamo predisposto questo cosiddetto nido, questa situazione? Vetarnegole c'è barha, se accade che una gallina scappa dalle uova e va via, e bisogna riportarla, ma hazirino talim koma, la si fa tornare al suo luogo da dove è scappata. Perché? Qual è il problema? Perché non si dovrebbe poter fare? Allora la Gemara spiega. Il cuore dietro. È vero, è un po' una melachà, trovarlo, riportarlo, eccetera. Però, oltre a questo, la Gemara spiega che, se vi ricordate, abbiamo detto che il divieto di melachà della vigilia di Pesach riprende un po' il divieto di melachà di Chol HaMoed. Abbiamo parlato di questo paragone. La Gemara spiega che questa frase della Mishnah, riguardo una gallina che è scappata, riguarda Chol HaMoed. Non riguarda più la vigilia di Pesach, perché la vigilia di Pesach abbiamo detto che si può creare tutta la situazione, quindi è chiaro, se è già stata creata, che puoi rimetterla a posto se un po' è stata rovinata, cioè la gallina è scappata. A maggior ragione che si può far quello se è permesso addirittura creare tutta la situazione a priori. Quindi in realtà, secondo la Gemara, che commenta e analizza questa Mishnah nel trattato di Pesachim del Talmud, dice che qui stiamo parlando adesso di Chol HaMoed, nella seconda frase della Mishnah. Ovvero ciò che hai preparato la vigilia di Pesach, se poi durante il Moed scappa la gallina, di Chol HaMoed la puoi riportare. Ok? E se invece fosse... basta, non c'entra con la vigilia. No, c'entra nel senso che creare la situazione è permesso la vigilia... Ok. è permesso la vigilia. Se è permesso crearla, ha maggior ragione che è permesso aggiustarla, nel senso se la gallina scappa è permesso. Siamo andati a prendere un concetto di Colamore che è utile qui. Insomma. No, siamo partiti parlando della vigilia di Pesach. Bene. Ok? Faccio un po' di chiarezza. La vigilia di Pesach, anche se è vietato fare melachah, è permesso creare la situazione in cui la gallina si mette sulle uova. Questo significa, non siamo arrivati ancora alla seconda frase, sempre nella prima frase, questo significa che se è permesso creare la situazione da a priori, ab inizio, allora è chiaro che sarebbe permesso anche rettificare la situazione nel caso fosse andata un po'. Rimetterla a posto. Esatto. Cioè se scappa, se scappa. Questo è prima ancora di cui, però già ancora. L'abbiamo capito. Ah, ho capito, prima ancora di questo. Ora la Mishnah dice, sottinteso, se fosse Chol HaMoed, non è permesso creare tutta la situazione dall'inizio, però se è già presente la situazione da prima di Moed, e oggi è Chol HaMoed e la gallina è scappata, la si può far tornare. Quindi Chol HaMoed è più rigoroso, non si può creare la situazione, ma se la situazione è già in essere e la gallina scappa, la si può far tornare. Chiaro? Perché Chol HaMoed non si può... Quindi Chol HaMoed è più rigorosa. Ma perché non si può creare Chol HaMoed? Chol HaMoed c'è un divieto di Melachà, che è più rigoroso rispetto al divieto di Melachà di Vigilia di Pesach. Abbiamo usato Chol HaMoed... Chol HaMoed non si può creare? Chol HaMoed, perché si chiama Chol HaMoed? Chol è profano e Moed è Moed. Quindi non è né come un giorno feriale, né come un giorno di festa solenne, tra virgolette. Molte melachot sono vietate a Chol HaMoed. Vuol dire, ciò che riguarda la quotidianità della vita, il mangiare, il cuocere, e anche cose che potrebbero andare perse, se non preparate, se non curate, è permesso fare Chol HaMoed. Questa qui non è, però, non è un lavoro, questo non è tipo un lavoro o qualcosa. Questo è, prima di tutto, capisco che melacà è vietata per... No, è un lavoro questo. Stiamo parlando di uno che ha una ditta o comunque un'azienda agricola, quello che è, non è uno che lo fa per svago, per così. Sarebbe il lavoro. È un tipo di lavoro, però visto che non è un lavoro che può essere considerato creativo come arare la terra, allora è meno rigoroso. Di conseguenza, alla vigilia di Pesach sarebbe permesso. A Chol HaMoed, essendo più rigoroso della vigilia di Pesach, non è permesso, ma se va, salta per aria, lo puoi rimettere a posto. Ok, grazie. Sì? Sì. Quello di Shabbat, l'uomo che viene deposto nei giorni di Moed e di Shabbat, tutti tre raccogliono. C'è tutto un intero trattato di Mishnah e Talmud impostato su questa domanda. Un'altra cosa poi. Adesso facciamo Pesachim, poi arriviamo a quello. Beitzah Noldah B'Yom Tov, proprio la Mishnah che apre il trattato di Beitzah, apre con questa domanda: come si gestisce la situazione di una Beitzah che nasce di Moed? Di Shabbat, sicuro che non si può prenderlo di Shabbat, però di Moed c'è domanda. Perché questi testi, a prescindere da questo, perché sono impostati in modo così ermetico? Cioè, ci vuole, non perché è giusto, fossero anche più chiari, ci vuole un maestro, un rabbino che ti guidi nello studio, e comunque, ma perché di impostazione sono così ermetici? Allora, è un'ottima domanda, finiamo questa Mishnah, questo paragrafo, e poi torno alla tua domanda, perché è molto importante. Ve'im meta, se è morta la gallina, moshivin acheret tachteha. I commentatori continuano, alcuni di loro, a dire che qui stiamo parlando sempre di Chol HaMoed, cioè la situazione è già impostata da prima, ma non è solamente scappata, è proprio morta la gallina, quindi è come se io dovessi rimpostare la situazione ex novo. Ok? Comunque Moshivin acheret tachteha, è permesso metterne un'altra al suo posto, quindi procurare una nuova gallina e metterla al posto della prima che era morta. Perché? Perché Chol HaMoed, come dicevo prima, esiste il concetto della perdita, che se non dovessi occuparmi di questa cosa perderei, visto che queste uova già hanno iniziato, come dire, a scaldarsi, no? quindi non tutti le mangerebbero perché già qualcosa si è formato dentro. E dall'altra parte neanche se è conclusa lo sviluppo del pulcino, allora cosa faccio? Lo devo buttare? Oppure lo devo vendere a meno del suo valore? Allora, vista questa perdita, mi è permesso di Holamoeda prendere un'altra gallina e continuare lo sviluppo del pulcino. Un attimo solo. Sì, Piero. Volevo dire se la gallina ha un significato particolare. No. Perché proprio la gallina? È un esempio. È un esempio, è un caso di un lavoro che è un non lavoro, che è un po' una via di mezzo tra un impegno e un non impegno. E quindi la domanda è se è permesso o non permesso in questi casi in cui... L'elemento forse nella preparazione che si è fatta che può creare una variazione, che il resto non, sono oggetti, non si spostano, l'unica è la gallina che può... Ma la gallina è l'unica che fa le uova, no? No, ma che può cambiare il quadro della preparazione. Adesso vediamo che c'è un altro esempio. Guardiamo la Mishnah, signori. Le patate. Quando abbiamo... Signori, gentilmente, chiedo scusa. Teniamoci al contesto. La prossima casistica di cui si parla nella Mishnah è sempre nell'ambito di un'azienda agricola, diciamo, dove c'è una stalla. Allora, nella stalla serve la pulizia della stalla, perché bisogna togliere tutto il concime che si forma dagli animali nel corso delle giornate. E allora la domanda è se è permesso fare questo lavoro la vigilia di Pesach, l'igrof, come si dice? Rastrellare tutta la zona della stalla da sotto le bestie, da sotto le loro gambe, eccetera. Allora la Mishnah dice, gorfim mitachat raglei behema, si può rastrellare il concime da sotto i piedi delle bestie, della bestia, be arbaasar. Nel giorno 14, vigilia di Pesach, nonostante ci sia il divieto di lavoro, è permesso fare questa operazione. Di nuovo vedremo subito, Holamoed è più rigoroso, Ubamoed significa non come quando diciamo noi Moed è il giorno del Moed, Moed significa qui Holamoed, ok? Quando la Mishnah dice Moed stiamo parlando di Holamoed. Mesalkin Latzadin. Si rastrella, ma all'interno della stalla si spinge verso i lati il concime e non si rastrella completamente togliendolo dalla stalla e trasportandolo dove deve andare, nei campi, eccetera. Solamente si rastrella e si mette a lato durante Holamoed. Poi dopo che finisce Moed si fa la pulizia totale. Ubamoed mesalkin latzdadin. Si spinge verso i lati. Il terzo caso di questa Mishnah è questo. Molichin umevin keilim mi beit uman. È permesso durante la vigilia di Pesach portare e prendere oggetti dalla casa o dalla bottega dell'artigiano, chi deve aggiustare qualcosa o fare qualche... rammendare un vestito da un sarto, aggiustare un oggetto dall'artigiano che se ne occupa. È vietato fare questo di vigilia di Pesach lui stesso, perché abbiamo detto sono cose che la vigilia di Pesach non si fanno sicuramente dopo Chatzot, però è permesso portarli dall'artigiano oppure andare dall'artigiano e ritirare qualcosa che è stata aggiustata. Questo è sì permesso. Perché lo si deve dire? Perché la Mishnah dice, afalpi, l'ultima parte della prima di questa Mishnah, afalpi sheinam lezorech moed, anche se questi oggetti non sono necessari per il moed, per la festività. Quindi tu dici, se ho aggiustato un motorino dal meccanico e vado la vigilia di Pesach verso pomeriggio a riportarlo a casa. Chiaro che il motorino di Moed non lo posso usare, quindi non sto facendo una cosa che mi serve per Moed. Forse questa cosa sarebbe vietata farla, visto che mi trovo in un momento, la vigilia di Pesach pomeriggio, che è vietato fare lavori che non servono sicuramente per il momento. No, questa cosa, la vigilia di Moed, sarebbe invece permessa sia portare al meccanico che prendere dal meccanico, se è pronto. Anche se non è necessario per il Moed, cioè lo spostamento dell'oggetto durante la vigilia di Pesach rispetto all'artigiano o chi aggiusta, eccetera, è permesso. a differenza di Chol HaMoed. Di nuovo c'è il contrasto. A Chol HaMoed questa operazione sarebbe vietata. Sempre c'è un po' più di rigore a Chol HaMoed rispetto alla vigilia di Pesach. Di Chol HaMoed sarebbe permesso solamente per oggetti che sono necessari per il Moed. Perché dopo Chol HaMoed c'è di nuovo un altro Moed. Se è necessario per il Moed, o per il Chol HaMoed stesso se è necessario, allora è permesso portare o prendere dall'artigiano. Non come la vigilia di Pesach, che è permesso anche se non serve per il Moed. Ok? Questa è la conclusione di questa Mishnah, che è la Mishnah numero 7. Ora Alberto ha fatto una domanda, ha detto, scusa, lo dico nelle parole mie, la Mishnah potrebbe parlare più chiaramente, perché noi studiamo una Mishnah e poi diciamo, la Gemara spiega che la Mishnah intende questo, e i commentatori discutono cos'è l'intenzione della Mishnah. La Mishnah sembra molto chiara, ma poi quando approfondisci, una parola intende un'altra. Quando dico Moed, significa Chol HaMoed, questo è già conoscere la linguistica della Mishnah, e anche bisogna entrare anche in questa ottica, perché ci sono tanti elementi. Però il discorso in generale, rimando, si può ascoltare sull'archivio delle registrazioni, rimando alle prime una o due lezioni che abbiamo fatto di Talmud, dove abbiamo approfondito tanto la struttura di come è strutturata la Mishnah e come è strutturata la Gemara. E quindi non entro adesso a lungo, perché conviene anche ripassare e approfondire, perché ci aiuta anche a capire meglio quello che stiamo studiando adesso. In generale, la Mishnah cosa è? È mettere per iscritto ciò che in teoria dovrebbe rimanere orale. Torah Shebe Alpe. Esatto. Esiste un divieto di mettere per iscritto ciò che deve essere orale. È molto sintetico. Esatto. Deve essere per forza così. Allora, cosa significa? Significa che i maestri sono arrivati alla conclusione che per salvare la Torah bisogna andare contro la Torah, cioè mettere per iscritto ciò che deve rimanere orale. Quando tu devi fare una cosa che non la vuoi fare, che in teoria sarebbe vietata, fai il minimo indispensabile. In altre parole, mettono per iscritto e rimane comunque una Torah orale, perché serve la trasmissione orale per capirla. Serve il rapporto umano per capirla. E così, questo lo dico solo a titolo, diciamo, di indicazione generale, perché ci sono anche altri elementi, non solo questa, nel modo in cui la Mishnah si esprime, e rimando di nuovo a quella lezione, magari dopo cerco qual è esattamente e mando il link specifico. Andiamo alla prossima Mishnah. Shisha Devarim. Sei cose, cioè sei comportamenti che tennero una comunità specifica, assù fecero Anshe Yericho, le persone che abitavano nella città di Gerico. Cioè la Mishnah ci sta dicendo che la comunità di Gerico avevano dei comportamenti, sei, esattamente sei cose, che i maestri non vedevano bene questi comportamenti. Nonostante non vedessero bene questi comportamenti, per tre di queste cose fecero una protesta i maestri, invece per gli altri tre lasciarono fare. Già capiamo che quando vediamo una cosa che non va, non subito dobbiamo parlare. A volte è meglio non parlare. In questo caso c'erano sei cose, di tre fecero, appunto, protestarono, e di tre no. Quali sono questi comportamenti? Allora, innanzitutto dice, al Shelosha Michu Biyadam, riguardo a tre di questi comportamenti, Michu, protestarono, gli dissero non dovete fare così, Val Shlosha lo Michu Biyadam, e per altri tre non lo fecero, non protestarono. Ve Eilu Hen Shelo Michu Biyadam, e questi seguenti tre sono quelli per i quali non hanno protestato i Chachamim. E ora vedremo che è legato alla vigilia di Pesach, ecco perché se ne parla qui, almeno alcune di queste cose. La prima cosa è Markivin de Kalim Kolayom, facevano gli innesti, i trapianti, e si occupavano dei Decalim. Decalim sono le palme, la zona di Yericho è una zona dove si coltivano i datteri, le palme da dattero, e il momento, la stagione di Pesach è proprio la stagione in cui loro devono lavorare sui nuovi alberi e sugli innesti e così via, che è una vera e propria melachà. E il non farlo nel momento giusto, anche per un albero specifico o un campo specifico, può essere può danneggiare tutta la stagione, se non si fa nel momento giusto in cui è giusto farlo per il bene del frutto, dell'albero e del frutto, e di conseguenza dell'economia della città, diciamo così. Allora, loro usavano fare questi innesti, la vigilia di Pesach, anche tutto il giorno. Significa che lavoravano anche dopo Chatzot, ok? In questo lavoro, in questo campo specifico di lavoro. E questa è la prima cosa. E su questo i Chachamim non protestarono, non dissero niente. La seconda cosa, che era un comportamento loro che adesso non c'entra più con Pesach, è Ve korchin et shema. Cosa significa korchin et shema? Korchin, la parola korech, da dove la conosciamo? Dal seder. Che significa korech? Il sandwich, no? Cioè, è come una copertura da entrambe le parti. Korchin et shema è un modo di dire che dicevano lo shema così com'è, crudo, senza Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed. Perché Baruch Shem Kvod Malchuto Leolam Vaed non è scritto nella Torah. È un versetto in più che noi mettiamo come sandwich tra Shema Israel e Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Loro, quelli di Gerico, secondo alcuni commentatori questo significa, non dicevano Baruch Shem. Un altro maestro invece è dell'opinione, che significa un'altra cosa, che non interrompevano bene tra una parola e l'altra per creare bene la distinzione chiara delle parole Shema, Israel, erano troppo attaccate le parole. E questo anche fu un punto su cui i Chachamim non protestarono. La terza cosa, ve kotzrin ve godshin lifnei haomer. Kotzrin, facevano la mietitura, ve godshin, e facevano e mettevano ciò che era stato fatto la mietitura, lo mettevano nei granai, il gadish è un granaio, ok? Quando? Ancora prima del omer. Cosa significa l'omer? L'omer significa che in Eretz Israel i cinque famosi cereali che sono riconosciuti cereali dalla Torah, quindi il grano, l'orzo, eccetera, non si possono mietere finché non si porta il korban dell'omer. Il korban dell'omer sarebbe il primo raccolto dell'orzo che si fa il secondo giorno di Pesach, quando noi iniziamo a contare l'omer, e quello si porta questa offerta, e da quel momento in poi è permesso mietere e mangiare della nuova raccolta di tutti i grani. Ok? O almeno dell'orzo. Ora, la mietitura del korban dell'omer, cioè l'omer è una misura, la mietitura di quello che si prende come misura dell'omer e dell'orzo, deve essere la prima mietitura della stagione, dell'anno. Perché c'è scritto nella Torah, Reishit Ketzirchem, l'inizio della vostra mietitura, di ciò che sarà fatta la mietitura. Ok? La Gemara dice che delle raccolte, dei prodotti agricoli, di grano, di frumento, che non sono di alta qualità e non si potrebbe portare da loro il korban dell'omer, che deve essere del migliore, questi, siccome non rientrano comunque nel korban, perché non potrebbero essere idonei, si possono iniziare già a fare la mietitura prima di portare il korban dell'omer. Non sono vincolati come quelli invece di più alta qualità, ok? Però i Chachamim dicono che è permesso solamente fare la mietitura, ma non è permesso riempire i granai. Si può iniziare a fare la mietitura, lasciare in qualche maniera nei campi, e poi i granai si devono riempire, i silos, eccetera, dopo che si porta il korban dell'omer, perché comunque è vietato mangiarli prima che si porta il korban dell'omer. Anche se è permesso iniziare la mietitura in alcuni campi, in alcune situazioni, ma è vietato comunque mangiarli. Allora i maestri hanno detto, se già entrano nei granai, entriamo nel forse, allora si può mietere, ma non creare i granai ancora. Invece, quelli di Gerico, cosa facevano? Non solo facevano la mietitura, riempivano anche i granai. E questo era non secondo la volontà dei Chachamim, ma velo michub yadam. Su tutte queste tre cose non fecero una protesta. Perché non fecero una protesta? Non c'è scritto nella Mishnah, bisogna approfondire. Può darsi perché credevano che anche se facessero la protesta non sarebbero ascoltati. Quando tu protesti una cosa non è tanto per parlare, è per ottenere un risultato. Se io protesto contro il comportamento di una persona che magari fa una cosa non volutamente contro, ma perché non lo sa, e se adesso lo sapesse che io glielo dico, guarda che non si può fare, se lui continua a farlo, io ho creato una situazione peggiore rispetto a quella che era prima, perché prima lo faceva involontariamente, perché pensava che era normale farlo. Ora lo fa nonostante sapesse che gli ho detto che non si può fare. E la colpa è tua. La colpa è sua, però è peggio. Ho creato, la colpa è mia che ho creato una situazione peggiore. Ma questo in molti altri casi potrebbe. Assolutamente sì. Cioè, stiamo facendo l'esempio di Gerico, però è un principio di base, principio assolutamente. Cioè, se crei tensione, i maestri dicono. I maestri non dicono, no, allora, attenzione, non in tutti i casi si applica questo assioma, ma in molti casi si applica l'assioma che mutav sheyiyu shogegin ve'aliyu mezidin, è meglio che lo facciano involontariamente che invece lo facciano intenzionalmente. Quindi questa è una delle dinamiche che uno deve considerare quando riprende un altro, o una comunità, o un rav, o i chachamim, come vediamo qui, che devono vedere dei comportamenti che non vanno bene, devono decidere se è giusto in quel caso. Questa è una delle motivazioni per decidere. È una delle cose da prendere in considerazione, non è l'unica. Perché sarebbe peggio che... ma è importante, è bellissimo questo. Molto interessante. Invece nell'altro... Ecco, invece le tre cose che hanno protestato, qual erano? Ve'elu shemichubi adam. Le seguenti sono quelle che invece hanno sì protestato. Allora, abbiamo già studiato in passato, per capire il prossimo caso di cosa si tratta, abbiamo già studiato che una persona potrebbe offrire al Hekdesh, cioè rendere sacro, in altre parole, offrire al tesoro del Bet HaMikdash, alla cassa del Bet HaMikdash, un oggetto o un campo o un animale, non come sacrificio, come bene che appartiene al Bet HaMikdash per qualsiasi cosa che loro possono vendere o possono usufruire di un affitto, qualsiasi cosa è per far entrare un flusso di soldi nelle casse del Bet HaMikdash, ok? E come dice, io lascio questi alberi al Bet HaMikdash, ok, diventano Hekdesh, diventano sacri. È vietato per una persona trarre beneficio da queste cose che sono sacre del Bet HaMikdash. Abbiamo parlato di questo, sì. I signori di Gerico cosa facevano? Matirin gamziot shel Hekdesh. Permettevano l'utilizzo di piccoli rami, non importanti, rami che non ci si può fare molto, che crescono su alberi che sono di Hekdesh, che le dicevano, i nostri avi che hanno dato in regalo, in dono, questi alberi all'Hekdesh, intendevano i fusti, le parti importanti dell'albero, ma questi che cadono, che nessuno ci fa niente, non hanno, ce li prendiamo noi. Ok? Sì. E godevano del bene che appartiene all'Hekdesh. E questo è assolutamente vietato, i maestri hanno protestato. La seconda cosa, ve'ochlin mitachat anesharim ba'shabbat, della frutta che si trova sotto un albero durante Shabbat, significa il frutto è caduto. Non si sa se è caduto dalla vigilia dello Shabbat e quindi è permesso mangiarlo, oppure è caduto durante Shabbat ed è vietato mangiarlo per una questione di mukzeh. Mukzeh significa ciò che sarebbe stato vietato quando è entrato Shabbat, perché se quando è entrato Shabbat questi frutti erano sull'albero e di Shabbat è vietato distaccare un frutto dall'albero, allora quel frutto che sta sull'albero, nel momento dell'accensione della candela, nel momento che entra Shabbat al tramonto, è frutta vietata. Anche se cade durante Shabbat rimane vietata. Allora, se noi vediamo solo il frutto e non sappiamo quando è caduto, noi siamo venuti sabato pomeriggio, dopo la lezione di Pirkei Avot, siamo andati a fare un giro e abbiamo trovato la frutta sotto, ecco qui abbiamo davanti l'albero dei mandarini e troviamo sotto l'albero della frutta. Possiamo mangiarla? No, perché non sappiamo quando è caduta. Loro la mangiavano, i maestri hanno protestato. Quelli di Gerico la mangiavano, i maestri hanno protestato. La terza cosa... Venotnin pea la yarak. Facevano la pea, ora vi spiego cosa è pea e l'abbiamo anche visto in passato. Facevano la pea per la verdura, la yerek, la yarak. Cosa significa? Voi sapete che esiste una mitzvah che in un campo, per esempio di frumento, c'è una mitzvah di lasciare quello che cade per quella è un'altra mitzvah. Si chiama leket. Ci sono tre mitzvot in questo ambito, leket, shichecha e pea. Leket significa se tu stai facendo la mietitura e stai raccogliendo il frumento e cadono una o due spighe, è vietato alzarle, le devi lasciare per i poveri. La seconda cosa è shichecha, vuol dire se prendi i covoni e li ammassi tutti da una parte, li porti dal granaio, eccetera, e ti arrivi a casa e ti ricordi ho lasciato un covone nel campo, shichecha, dimenticanza. La mitzvah è di lasciarlo nel campo per i poveri. L'unica mitzvah che non si può fare apposta. Solo per sbaglio la si può fare. Devo fare la mitzvah di Shechecha. Beh, non lo puoi fare se vuoi. La terza è la pea. La pea significa letteralmente un angolo. Bisogna lasciare un angolo non toccato e quello è dedicato ai poveri. I poveri vengono e prendono. È considerata di loro proprietà. Ora, per la verdura... Non c'è la mitzvah della pea. Non bisogna lasciare un angolo dell'insalata, per esempio. Ok? Ora... Solo per il frumento. Frumento. Ora la domanda è... la verdura c'è un obbligo, di un altro obbligo, di maaser. La decima che bisogna togliere dal raccolto. Mentre invece ciò che rimane come pea non si applica al discorso di maaser. È già... proprietà dei poveri e non rientra nel maaser. Non bisogna separare, devolvere il maaser, la decima, dalla pea, dall'angolo che si lascia. Se io lascio l'angolo della verdura, lì si applica il discorso del maaser, perché non c'è la mitzvah di pea lì. Non si deve fare la pea. E di conseguenza bisogna fare la decima da quello. Ma se io lascio l'angolo lì per i poveri, e nessuno si occupa di devolvere la decima, cosa sto facendo? Sto togliendo un prodotto dalla decima, come se io rubassi dal levita che prende quella decima. Capito? Cioè io in teoria penso di fare una mitzvah, lascio l'angolo della... Invece cosa sto facendo? Mi sto evadendo dalle tasse della decima al tempo stesso, e questo non si può fare. E allora i maestri hanno protestato anche questa cosa qui. Non l'ho capita questa. Io stavo facendo mangiare ai poveri un prodotto dal quale bisogna prendere la decima, senza prendere la decima, che è vietato. Un prodotto che bisogna prendere la decima è taref finché non si prende la decima. Oltretutto, si chiama tevel. La decima, okay? Dovrebbe prendere il povero, perché lo prendo io? No. La decima prende le vita, l'angolo. Sì, no, nel senso, perché devolvere, dice. Perché quando si applica la mitzvah della pea, allora non si applica la mitzvah del maaser. Capito? Quindi il povero non deve prendere nessuna decima, non c'è l'obbligo di maaser. Certo. Ma nella verdura c'è l'obbligo di maaser. Allora se io faccio invece di fare maaser, lascio ai poveri, non va bene. Non va bene perché ho tolto l'altra. Sto andando contro la mitzvah del maaser. Sto facendo mangiare a loro una cosa che non si potrebbe mangiare perché non è stato preso il maaser. E comunque ho tolto questa... Sì? Quindi facevano l'angolo anziché il maaser per l'erba. Bravo. Che cosa che non dovevano fare? E mihubi adam chachamim. I chachamim hanno protestato perché i rametti, anche se sono piccoli, sono sempre di Ekdesh ed è vietato trarre beneficio personale. La frutta... Per il dubbio non si sa se è caduta di Shabbat o meno, quindi se fosse rimasta attaccata da prima sarebbe vietata e quindi per il dubbio non si può mangiare. E la pea non la si può lasciare per la verdura perché la si toglierebbe dall'obbligo del Maser, in tutti questi casi i maestri hanno protestato. Sì. Il concetto di Maser. Allora, Maser in sintesi è l'obbligo originale della decima, in realtà, scusate, in realtà è una di una serie di doni che vanno fatti in Eretz Israel nel campo agricolo. Nella situazione dell'agricoltura, quando tu prendi la raccolta, in base a quale anno è del ciclo di 7 anni della famosa Shemitah, no, l'anno sabbatico, e in base ad altre considerazioni, ci sono dei prelievi, diciamo, da fare. Una parte si chiama Terumah, Terumah va data ai Kohanim. Una parte si chiama Maaser, Maaser va data ai Leviim. C'è poi un altro tipo di Maaser che si chiama Maaser Sheni, la seconda decima. La seconda decima non è devoluta a qualcun altro, è sempre proprietà di chi produce o di chi è il titolare, però la può mangiare solamente a Gerusalemme. In alcuni anni invece c'è il Maaser Ani, invece del Maaser Sheni di questa seconda decima, c'è la decima che bisogna dare al povero, Ani. A parte i doni dei poveri, di quello che abbiamo detto prima, Leke, Cichecha e Pea, che è un'altra cosa. Quindi ci sono in Eretz Israel tutta una serie di regole che bisogna rispettare nel campo dell'agricoltura, e che solo avendo fatto queste cose il cibo diventa permesso. Ecco perché in Israele, quando si va dal fruttivendolo, bisogna vedere se c'è la teudà. Qui noi cerchiamo la teudà per la carne, per il formaggio, ma in Israele serve la teudà anche per la frutta e verdura, perché è molto complicato, che bisogna assicurare che sia stato fatto tutta la prassi, sia stata seguita per renderla permessa. Però i poveri pagavano pure la tassa a questi anni. Li danno poi. Ma infatti, ragazzi, io mi sono sempre chiesto poi la pratica doveva. Come la halah, bisogna distruggere. Ah, ecco. Però non si distrugge 10%, di meno. Ah, ok. Però sì, una parte deve essere tolta. Simbolico. Sì, c'è una berachà che si fa, è una cosa seria. Certo, sì. Anche i poveri pagavano le tasse, in questo caso. Sì, beh, in un certo senso sì, dipende che livello di povertà. C'è anche la regola su questo, su il povero che è obbligato a fare i doni, anche quello dipende da quanto ha e come fa. Allora, qual è la tua domanda? Ok, concludiamo qui. La prossima volta abbiamo, visto che abbiamo detto una Mishnah dove ci sono 6 cose, la prossima volta parliamo di altre 6 cose che fece Chizkiyahu, il re Chizkiyahu. 6 cose, 3 cose i maestri erano d'accordo e 3 cose non erano d'accordo. Vediamo la prossima volta.